Cubino che Yebina e Saro al microfono, Malarò è sul beat, Chiavari, Savona, Salento, Reggae Salento volume 2, Bella Luciani, come sempre in ritardo, ma non conta se arrivi in ritardo, ma conta se arrivi di fatto. Mi devo svegliare entro mezzogiorno, o da mixare entro mezzogiorno, Saro e beat entro mezzogiorno, Malarò è sul beat entro mezzogiorno. Mi devo svegliare entro mezzogiorno, o da mixare entro mezzogiorno, Saro e beat entro mezzogiorno, Reggae Salento click entro mezzogiorno. Questa mattina sono preso bene, zero teschi e bandiere nere, un po' di musica mi lavo, colazione giù al bar da Mauro, la pizzetta e il caffè, chiamo Saro, bella me, sono binè, per Reggae Salento c'è poco tempo, se no poi chi glielo dice a Luciani, già non siamo reggeggianti, rischiamo di fare danni. Ritorno dalla riviera al tacco, è un altro pacco, la notte del 24, entro mezzogiorno, Malarò è sul battito, Bino con Saro al microfono è un attimo, bella raga, oggi levo il distacco che ci lega e ci rilega a riscatto, anche se non ribadisco, è quasi sempre diverso da come previsto. Mi devo svegliare entro mezzogiorno, o da mixare entro mezzogiorno, Saro e beat entro mezzogiorno, Malarò sul beat entro mezzogiorno. Mi devo svegliare entro mezzogiorno, o da mixare entro mezzogiorno, Saro e beat entro mezzogiorno, Reggae Salento click entro mezzogiorno. Figlio di operai, suonatore, viaggiatori, prendo in mano una penna e disegno un mondo a colori, il profumo delle onde, la musica si fonde, emozioni danzano e mi danno un bacio in fronte, cazzo che viaggiona nel paese dei balocchi, devo essere pronte tra i 12 rintocchi, non mi rendo conto se sia realtà o sogno, rigirandomi nel letto a volte in un sonno profondo, vedo forme e colori, tra luce e accensioni, si sta facendo tardi, che strane situazioni, perennemente in ritardo, me la vivo al varco, ogni notte sempre in bianco, in cameretta maneggi aggeggi, con quello vaci piano, mi sa che non lo reggi, il sole si fa in alto, è arrivato un altro giorno, la sveglia che martella ci si becca entro mezzogiorno, mi devo svegliare entro mezzogiorno, o da mixare entro mezzogiorno, Saro e beat entro mezzogiorno, Malarò sul beat entro mezzogiorno, mi devo svegliare entro mezzogiorno, o da mixare entro mezzogiorno, Saro e beat entro mezzogiorno, Reggae Salento click entro mezzogiorno. Oh oh oh, siamo ai saluti, quindi grazie a Luciani per averci fatto partecipare a Reggae Salento volume 2. Entro mezzogiorno, siamo in ritardo con la traccia, quindi adesso devo staccare qua e mandarti tutto bello mixato. Mezzogiorno l'abbiamo superato.